allentate o spezzate. Le molle della macchina del rifiuto non funzionavano più. Mille corpi estranei vi si insinuavano, le toglievano qualsiasi omogeneità, qualsiasi tenuta, qualsiasi tinta. Simile a una vecchia dama rincitrullita, il Faubourg Saint-Germain rispondeva soltanto con timidi sorrisi ai domestici insolenti che invadevano i suoi salotti, bevevano la sua aranciata e gli presentavano le loro amanti. Ma ancor più vivamente che dalla distruzione di quell'insieme coerente che era stato il salotto Germain, la sensazione del tempo trascorso e della scomparsa di una piccola parte del mio passato mi veniva dall'annientamento della stessa conoscenza dei mille motivi, delle mille sfumature per cui un tale che tuttora lo frequentava vi appariva del tutto adatto e al proprio posto, mentre un altro che gli stava accanto dava un'impressione di novità sospetta. Questa ignoranza non riguardava solo la società, ma la politica. Tutto. La memoria, infatti, durava meno della vita nei singoli, e d'altronde c'erano dei giovanissimi che, non avendo mai avuto i ricordi spariti negli altri e costituendo ora, del tutto legittimamente, del resto anche in senso nobiliare, una parte del gran mondo, vedevano le persone, dal momento che gli inizi erano dimenticati o ignorati, nel punto d'ascesa o di caduta in cui si trovavano ora e pensavano che fosse sempre stato così, che Madame Swann e la principessa di Germain e Bloch avessero sempre occupato le posizioni più elevate e che Clemenceau e Viviani fossero sempre stati conservatori. E siccome certi fatti hanno una maggiore durata e il ricordo esecrato dell'affare Dreyfus persisteva vagamente in loro grazie a quanto ne avevano sentito dai loro padri, se si diceva loro che Clemenceau era stato dreyfusista, replicavano «Impossibile, vi sbagliate, è esattamente dalla parte opposta». Ministri corrotti ed ex prostitute erano considerati modelli di virtù. Un giovane signore di grandissima famiglia, cui qualcuno aveva chiesto se non ci fosse qualcosa da ridire sulla madre di Gilbert, rispose che, in effetti, nella prima parte della sua vita aveva sposato un avventuriero di nome Swann, ma aveva poi sposato uno degli uomini più in vista della città, il conte di Faucheville. In quel salotto qualcuno, per esempio la duchessa di Germain, avrebbe certamente sorriso di questa asserzione, che a me sembrava mostruosa, in quanto negava l'eleganza di Swann, mentre in altri tempi a Combray io stesso avevo creduto, assieme alla mia prozia, che Swann non potesse conoscere delle principesse e oltre a lei alcune donne che avrebbero potuto essere lì ma non uscivano quasi più di casa. Le duchesse di Montmorency, di Mouchy, di Sagan, che erano state amiche intime di Swann e non avevano mai visto quel Faucheville cui il gran mondo, quando loro ancora ci andavano, non aveva mai aperto le sue porte. Ma il fatto è appunto che la società d'allora, proprio come i volti oggi mutati e i capelli biondi sostituiti da capelli bianchi, non esisteva più che nella memoria di esseri il cui numero diminuiva ogni giorno. Bloch, durante la guerra, aveva smesso di uscire, di frequentare i suoi vecchi ambienti d'una volta, dove faceva una così magra figura. In compenso, non aveva smesso di pubblicare quei suoi libri di cui oggi mi sforzavo, per non esserne intralciato, di distruggere gli assurdi sofismi, libri senza originalità ma che davano ai giovani e a molte donne della buona società l'impressione di un'insolita altezza intellettuale, d'una sorta di genialità. Fu dunque dopo una scissione completa fra la sua vecchia e la sua nuova mondanità, in una società ricostituita, che egli aveva fatto, per una fase nuova, onorata e gloriosa della sua vita, un'apparizione da grand'uomo. I giovani naturalmente ignoravano che Bloch fosse, a quell'età, ai suoi primi passi nel gran mondo, tanto più che i pochi nomi rimastigli in mente dalla sua frequentazione di Saint-Lieu gli consentivano di dare al suo attuale prestigio una sorta di anzianità indefinita. In ogni caso, appariva come uno di quegli uomini di talento che sono sempre esistiti nell'alta società e si pensava che non fosse mai vissuto altrove. I vecchi assicuravano che nel gran mondo tutto era cambiato, che vi si ricevevano persone che ai loro tempi nessuno avrebbe ricevute. E questo, come si suol dire, era vero e insieme non lo era. Non era vero perché non si rendevano conto, costoro, della curva del tempo, a causa della quale oggi si vedevano le persone nuove al punto d'arrivo, mentre loro le ricordavano al punto di partenza. E quando loro, i vecchi, vi erano entrati, in società c'erano persone arrivate di cui altri non ricordavano la partenza. Basta una generazione perché in essa si riproduca il cambiamento che nel corso dei secoli ha fatto del nome borghese di un Colbert un nome nobile. E d'altra parte potrebbe essere vero, perché se cambia la posizione delle persone, cambiano, così come le fortune e le alleanze fra nazioni o gli odi fra nazioni, anche le idee e i costumi meno sradicabili, fra cui persino quello di ricevere soltanto persone eleganti. Non solo lo snobismo cambia forma, ma potrebbe, come la stessa guerra, sparire e i radicali e gli ebrei essere ammessi al giochi. Se le nuove generazioni tenevano in poco conto la duchessa di Germain perché conosceva delle attrici, eccetera, le signore oggi vecchie della famiglia la consideravano sempre come un personaggio straordinario. Da un lato, perché ne conoscevano esattamente la nascita, il primato araldico, la dimestichezza con quelle che Madame de Faucheville avrebbe chiamato le royalties, ma anche perché disdegnava di frequentare la famiglia, vi si annoiava, ed era risaputo che non si poteva mai contare su di lei. Le sue relazioni teatrali e politiche, d'altronde imperfettamente conosciute, non facevano che aumentare la sua rarità, dunque il suo prestigio. E così, mentre nell'ambiente politico e artistico era considerata una creatura mal definita, una sorta di spretata del Faubourg Saint-Germain, che frequenta i sottosegretari di Stato e le attrici più in voga, nello stesso Faubourg Saint-Germain, quando si trattava di organizzare una serata brillante, si diceva «Vale la pena di invitare Orion?» «Non verrà, giusto per la forma, ma non è il caso di farsi illusioni». E se verso le 10:30, in una toilette abbagliante, lasciando che la durezza degli sguardi che posava su di loro mostrasse il suo disprezzo per le cugine, Orion faceva la sua apparizione, sostando sulla soglia in una sorta di maestoso disdegno, e si tratteneva un'ora. Per la vecchia grandama che dava la serata era festa più grande che in altri tempi per un direttore di teatro, se Sara Bernard, dopo aver vagamente promesso una partecipazione sulla quale nessuno faceva assegnamento, fosse arrivata e con una compiacenza, una semplicità infinite, anziché il brano promesso, ne avesse recitati una ventina. La presenza di quell'Orion, che i capi di gabinetto trattavano dall'alto in basso, e che non per questo lo spirito fa andare il mondo, smetteva di volerne conoscere sempre di più, aveva proiettato la serata della vecchia dama, cui pure presenziavano donne estremamente eleganti, al di fuori e al di sopra di tutte le altre serate di vecchie dame della stessa season, per dirla ancora con Madame de Faucheville, per le quali Orion non s'era sognata di scomodarsi. Non appena ebbi finito di parlare al principe di Germain, Bloch si impadronì di me e mi presentò a una giovane donna che aveva molto sentito parlare di me dalla duchessa di Germain e che era una delle donne più eleganti del momento. Ora, il suo nome mi era del tutto ignoto e quello dei vari Germain non doveva esserle molto familiare, poiché chiese a un'americana a quale titolo Madame de Saint-Leu apparisse in tanta intimità con tutte le persone più brillanti presenti quella sera. Si dà il caso che questa americana fosse la moglie del conte di Farcy, oscuro parente dei Faucheville, per il quale essi rappresentavano quanto di più grande vi fosse al mondo. Rispose dunque con assoluta naturalezza: «Basti dire che è nata a Faucheville, è il massimo che ci sia». E ancora Madame de Farcy, pur credendo ingenuamente che Faucheville fosse, come nome, superiore a Saint-Leu, sapeva almeno cosa fosse quest'ultimo. Ma l'incantevole amica di Bloch e della duchessa di Guermont lo ignorava nel modo più assoluto. Ed essendo alquanto sventata, a una fanciulla che le chiedeva come fosse imparentata Madame de Saint-Leu col padrone di casa, il principe di Guermont rispose in buona fede «attraverso i Faucheville», informazione che la fanciulla trasmise come se l'avesse posseduta da sempre a una sua amica, la quale, essendo nervosa e di cattivo carattere, diventò rossa come un tacchino la prima volta che sentì un signore dire che Gilbert non era imparentata ai Guermont attraverso i Faucheville, tanto che il signore credette d'essersi sbagliato, adottò l'errore e non tardò a propagarlo. I pranzi, le feste mondane, erano per l'americana una sorta di scuola a Berlitz. Sentiva i nomi e li ripeteva senza prima accertarne il valore, l'esatta portata. A uno che chiedeva se Gilbert avesse ereditato Tansonville da suo padre, il signor di Faucheville, fu spiegato di no, che Tansonville era una proprietà della famiglia del marito nei pressi di Guermont, apparteneva a Madame de Marsan, ma essendo coperta di ipoteche era stata riscattata in dote da Gilbert. Infine, quando un vecchio della vecchia cerchia evocò Swann, amico dei Sagan e dei Mouchy, l'americana, amica di Bloch, chiese come io l'avessi conosciuto, e quello dichiarò che l'avevo conosciuto in casa di Madame de Guermont, non sapendo nulla del vicino di campagna, giovane amico di mio nonno, che Swann rappresentava per me. Abbagli di questo genere sono stati presi dagli uomini più famosi e passano per particolarmente gravi in ogni società conservatrice. Saint-Simon, volendo dimostrare che l'ignoranza di Luigi XIV lo faceva cadere a volte in pubblico nelle assurdità più grossolane, dà di tale ignoranza solo due esempi, ossia che il re, non sapendo che Renel apparteneva alla famiglia di Clermont-Galleron, né Saint-Hérem a quella di Montmorin, li trattò da uomini di poco conto. Per quanto concerne Saint-Hérem, abbiamo almeno la consolazione di apprendere che il re non morì nell'errore, giacché ne fu distolto assai tardi dal signor di La Rochefoucauld. E, aggiunge Saint-Simon, non senza commiserazione, dovette anche spiegargli cosa mai fossero quelle casate, il cui nome non gli diceva niente. Un oblio così vivace, che copre così rapidamente il più recente passato, un'ignoranza così invadente, crea, per contraccolpo, un piccolo sapere, tanto più prezioso quanto meno diffuso, concernente la genealogia delle persone, la loro effettiva posizione sociale, le ragioni d'amore, di denaro o altro per cui si sono imparentate con una determinata famiglia o sposate malamente, sapere apprezzato in ogni società dominata da una mentalità conservatrice, sapere che mio nonno possedeva al più alto grado per quanto riguardava la borghesia di Combray di Parigi, sapere che Saint-Simon apprezzava a tal punto che nel celebrare la meravigliosa intelligenza del principe di Conti, prima ancora di parlare delle scienze, o meglio, come se si trattasse della prima delle scienze, lo elogia per aver avuto una bellissima mente illuminata, precisa, infallibile, ampia, di letture infinite, che non dimenticava nulla, che conosceva le genealogie, le loro chimere e le loro realtà, dalla cortesia ben graduata, a seconda del rango e del merito, capace di soddisfare a tutto ciò cui i principi del sangue sono tenuti e cui non soddisfano più. Su ciò, anzi, si diffondeva e sulle loro usurpazioni. La storia dei libri e delle conversazioni gli forniva materia, per quanto di più lusinghiero gli sembrasse di poter dire sulla nascita, le cariche, eccetera. Per una società meno brillante, tutto ciò che riguardava la borghesia di Combray e di Parigi, mio nonno non lo sapeva con minore esattezza, né lo assaporava con minor ghiottoneria. Buon gustai, amatori siffatti, non ignari che Gilbert non era una Faucheville, né Madame de Cambremer una Méséglise, o la più giovane una Valentinois erano ormai poco numerosi. Poco numerosi e nemmeno forse appartenenti alla più alta aristocrazia. Non sono per forza i devoti e nemmeno i cattolici ad essere i maggiori conoscitori della leggenda aurea o delle vetrate del XIII secolo, bensì, il più delle volte, a un'aristocrazia secondaria, più ghiotta di ciò a cui ben raramente s'accosta e che ha tanto più agio di studiare quanto meno lo frequenta. Contenti piuttosto di incontrarsi fra loro, di conoscersi l'un l'altro, di organizzare succulenti pranzi sociali come la società dei bibliofili o degli amici di Reims, pranzi durante i quali si degustano genealogie. Le mogli non vi sono ammesse, ma i mariti, tornando a casa, le informano. «Sono stato a un pranzo interessante. C'era un certo signor della Raspellier che ci ha affascinati, spiegandoci come quella Madame de Saint-Lieu, che ha quella figlia graziosa, non sia per niente nata Faucheville. È tutto un romanzo».